Therapy. Bella Del, mi domando come stai. Da quando hai fatto successo non ti fai sentire mai. Io sono un cornuto, la mia tipa mi ha fottuto. Ho perso anche il lavoro, ho perso i miei valori. Lavoravo con mio zio, adesso mi ha tagliato fuori. Dice che sono un cazzone, fissato per la canzone. Avrei dovuto studiare e diventare un professore, invece di cantare e saltare lezione. Per i miei genitori sono un dando. Da un po' anche mi drogo, tranquillo tanto lo sanno. Non ho neanche la macchina, dovrei fare una rapina. Visto che non ho soldi neanche per fare benzina. Rubo soldi a mia madre, li spendo in birre e liquori. Sbatto la testa contro un muro, so di non avere un futuro. Ma con la musica non smetto mai. E questa volta te lo giuro. Una lettera a me. Bella Matteo, sono Del, ti mando un saluto. Ho saputo che la tua tipa ti ha fatto cornuto. Ma tu non ci pensare, te non ti scoraggiare. Continua pure a suonare, vedrai ce la puoi fare. Io non ho studiato ma sappi che ce l'ho fatta. Nonostante mio padre voleva indossarsi una cravatta. Ora suono in tanti posti, conosco tanta gente. Faccio tanti soldi e non li devo niente. Ti ricordi? Ero quello sfigato che tornava a casa presto. Ora sono senza orari, giro sopra un Ferrari. Faccio belle canzoni, destinato a far milioni. Ho anche una casa con tre balconi. Questa è la mia vita, la gente brucia d'invidia. Mi danno solo disprezzo, ma la classe non apprezzo. Salutami i tuoi genitori, sarei voluto venirti a trovare. Ma stasera sono a cena fuori. Una lettera a me. We can always have it all.